Ciao a tutti da Radio Big World e benvenuti ad ascoltare quello che sto per dirvi. Il titolo di questi 10 minuti di conversazione, perché se volete ne possiamo riparlare, è Bimbi, Aquile e Amori. Un piccolo bimbo camminava solo sulla partigia del mare. Il bimbo era così piccolo che per spostarsi su quella riva del mare, incantevole, calmo, trasparente, camminava un po' sulle sue gambette esili, ma un po' gattonava perché durava meno fatica. Il piccolo era solo sulla riva del mare, ma non aveva paura. Anzi, la sua solitudine e la capacità di camminare che stava esercitando rafforzavano la sua voglia e il suo piacere di crescere. In alto nel cielo, un'aquila reale volteggiava, cullandosi nella corrente ascensionale e, come fanno tutti gli animali, giocava e nello stesso tempo pensava come rimediare cibo per sé e per i suoi due pulcini che attendevano nell'anfratto, nel nido costruito da lei e dal suo compagno, in un posto della montagna dove non c'era accessibilità per altri animali e neppure accessibilità per gli umani. Era il nido dell'aquila. L'aquila, bellissima e libera e potente, vide il bimbo che camminava sulla battigia, seguì per un po' i movimenti di quell'umano e poi decise di gettarsi in picchiata. Adeguò l'assetto del suo corpo e delle sue ali per la massima velocità e si lanciò verso il basso. Quando uscì da quell'acqua cristallina e calma, scosse le sue penne, soddisfatta di quel bagnetto, e cercò il bimbetto che aveva visto dall'alto del cielo. L'aquila, quando aggredisce una preda, estrae i suoi artigli taglienti come rasoi e lunghi circa 3 centimetri e poi, con il becco d'aquila ovviamente, un'arma micidiale, sbrandella la sua preda e la porta nel nido cibo per i suoi pulcini. L'aquila si fermò sulla battigia e il piccolo umano continuava a camminare verso di lei senza paura. Quando furono vicinissimi, si fissarono negli occhi. L'aquila allora comprese il messaggio del bimbo, ritrasse i suoi artigli affilati, prese il bimbetto tra le zampe e volò in alto, così in alto che il bimbo aveva gli occhi sbarrati per le meraviglie di volare e nessuno dei due aveva paura. L'aquila, uno tra gli animali con la vista acutissima, vide il villaggio vicino alla spiaggia. Si abbassò lentamente verso il suolo, volando in cerchi concentrici sempre più bassi, e depose il bimbo nello spazio al centro del villaggio. Bimbo e aquila si guardarono di nuovo negli occhi, si capirono e ognuno andò per la sua strada. L'aquila riprese il volo a caccia di cibo per i suoi pulcini e il bimbo, che si era perso, era ora tornato al suo villaggio. Il bimbo crebbe e l'aquila invecchiò. ma il bimbo e l'aquila non si rividero mai. Il bimbo crebbe. Andando a caccia assieme ai cacciatori del villaggio per procurarsi cibo, il bimbetto, che era ormai un uomo, si trovò con gli altri cacciatori su un dirupo vicino al nido di un'aquila, dove c'erano due aquilotti in plumi. Un cacciatore del gruppo stava per uccidere gli aquilotti e farsene cibo. Ma tutto avvenne velocemente in un secondo. Il giovane uomo che da bimbetto aveva volato aggrappato alle zampe dell'aquila spinse il cacciatore verso il dirupo, gli aquilotti furono salvi e i cacciatori tutti insieme cambiarono zona di caccia e fecero buona caccia altrove. Quando i cacciatori tornarono al villaggio con una preda importante, portavano il palo da cui pendeva la gazzella cacciata in quattro persone, perché era una bella preda. La preda uccisa avrebbe fornito carne fresca per molti giorni e al cacciatore più bravo avrebbero assegnato la pelle dell'animale per farne abiti o giaciglio. Non fece notizia il cacciatore che non era tornato perché era precipitato giù dal dirupo. Solo la donna che dormiva nella stessa capanna del cacciatore, precipitato nel baratro, volle conoscere qualche particolare dell'incidente. Infatti, era una cosa abbastanza normale che qualcuno morisse durante una battuta di caccia. Perciò, velocemente, gli abitanti del villaggio dimenticarono la morte per godere la vita. Lela, che come abbiamo detto dormiva nella capanna del cacciatore precipitato, era una donna molto bella e desiderabile dagli uomini. Quella sera al villaggio si fece una festa attorno al grande falò dove la carne coceva. Tutti mangiarono tanto e si sentirono sazi. Era un momento magico e i ragazzi ascoltavano il racconto dei cacciatori. Gli uomini giovani pavoneggiavano la bellezza del loro corpo e la loro bravura di cacciare, gli anziani guardavano, tacevano e ascoltavano. Le donne del villaggio, che sapevano quanto è importante avere nuovi nati e assecondare i maschi in amore, si davano accondiscendenti a chi le cercava e a chi loro più piaceva. Il nostro giovane uomo che aveva volato con l'aquila era molto attratto da Lela e quella sera la conquistò perché Lela aveva il suo compagno e l'aveva perso perché il giovane, durante la battuta di caccia al nido delle aquile, aveva spinto nel burrone il concorrente. Lela non era informata di come erano avvenute le cose, perciò portò il giovane uomo nella capanna, dove passarono la notte insieme e si divertirono. E forse concepirono un figlio. Il giovane uomo che aveva volato con l'aquila ebbe, da una spinta data al momento giusto alla persona opportuna, ebbe il corpo di Lela, una capanna a disposizione e forse dopo 9 mesi ebbe anche un figlio. Vi saluto, al prossimo incontro, se vi farà piacere, e da Radio Big World buona giornata, buona serata, buona nottata. Ciao ciao!